Letture di Radio 24. La crisi è passata o ci aspetta un altro anno di difficoltà? Ripartono i consumi o continueremo a vedere un futuro fosco? Tutte domande per un 2011 incerto che non sappiamo capire come andrà. Inferno o paradiso il 2011? La domanda se la pone un report di Credit Suisse e ha un senso. Ci sono troppi segnali discordanti. Il primo riguarda il dubbio tra espansione e stagnazione. Se si guarda non solo la resistenza di Stati Uniti ed Europa, ma la crescita che stiamo vedendo nelle due aree, verrebbe da pensare che il mondo occidentale stia per ripartire. O forse è già ripartito. Se si proietta poi ogni ripartenza, ogni uscita dalle ultime crisi, emerge che hanno sempre sorpreso per la loro capacità di anticipare le aspettative, di accelerare i trend di recupero. E questo farebbe sperare che il 2011 fosse addirittura molto brillante. D'altra parte ci sono coloro che già vedono un rallentamento in Cina, la disoccupazione in tutto il mondo che non accenna a diminuire, i consumi delle fasce basse che ristagnano, ma anche molte altre cose negative per suggerire a dir poco prudenza. La maggior parte di coloro che guarda a queste cose è poi convinta che, finito il ripristino delle scorte che ha molto aiutato i fatturati 2010, il 2011 farà tornare tutti molto indietro. E se fosse così, sarà deflazione, altro che crescita forte. Il secondo elemento riguarda le valute, dove una corrente di pensiero vede l'euro sprofondare a 0,8 sul dollaro nel corso del 2011. Ciò a causa della quantità di debito dell'area euro, dell'insanabilità dei deficit di molti paesi e tenuto conto della manifesta difformità di vedute tra i singoli governi. A questa convinzione si oppongono coloro che invece teorizzano l'impossibilità per gli Stati Uniti di lasciare apprezzare troppo il dollaro sull'euro, in quanto con la domanda interna stagnante l'unica vera speranza per l'industria americana sono le esportazioni e queste sono possibili solo se il dollaro si indebolisce, non viceversa. E di fronte ad una valuta e un'economia cinese non controllabili, l'unica leva per gli americani sembra essere il cambio con l'euro. Anche qui, come si vede, siamo su previsioni assolutamente divergenti. Inferno o paradiso? La terza categoria di considerazioni riguarda i tassi di sviluppo delle economie emergenti, cioè delle locomotive che, volenti o nolenti, da qualche anno trainano l'economia mondiale. Le loro auto, i loro vestiti, le loro case, più ancora dell'effetto sul lusso o sui consumi di alta gamma di vecchi e nuovi ricchi, genereranno ordini di merci in grado di alzare pesantemente le medie mondiali dello sviluppo. Altri invece, proprio in queste ultime settimane, notano che la Cina rallenta paurosamente, che il Brasile ha già l'immobiliare in bolla e che non può reggere. Inoltre, qualche tigre asiatica sembra aver esagerato e non può che fermarsi, frenare. E tutto ciò darà vita ad un crollo di quelle economie, proprio nel 2011. Un altro elemento preso in considerazione riguarda i mercati, le borse. Dopo un 2009 sorprendentemente positivo, il 2010 ha avuto molte facce. Buono, pessimo, con entusiasmi, paure, strumentalizzazioni di crisi e necessità di precipitose ricoperture. Da ciò, quale indicazione emerge per il 2011? Alcuni sostengono che una stasi borsistica troppo lunga non sia mai vista. Altri invece, numeri alla mano, dimostrano che se solo il Dow Jones sfiorasse i 10.700 punti, ci potrebbe essere un baratro del 20 o 25% ed una crisi dei mercati per ben più di un anno. Poi ci sono i soliti sedicenti esperti che guardano i multipli di mercato e anche qui taluni arrivano a dire che li vedono bassissimi, per cui le borse devono salire. Altri dicono che le banche sono ancora piene di buchi, le assicurazioni di titoli tossici, le corporation di problemi commerciali, per cui rispetto all'andamento dell'economia reale tutto è drogato. L'inferno, insomma. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Oroscopo del 2011, Stelle misteriose, di Giuseppe Turani, pubblicato da Repubblica il 5 dicembre. Letture di Radio 24. Sette anni fa, con il sangue dei vinti, Giampaolo Pansa inaugurava un ciclo di indagini sui morti dimenticati della guerra civile. I vinti, ovvero i morti cattivi, quelli che a differenza dei morti buoni non si possono nemmeno ricordare. Oggi Pansa torna a dialogare con la bibliotecaria Livia Bianchi, già protagonista del Sangue dei Vinti, che ha ancora molti episodi da raccontare sulla pulizia etnica del Nord-Est e sui massacri compiuti dai partigiani tra il 1943 e il 1945. Come quello raccontato da Gianluigi Ragazzoni, ex militare della RSI, catturato dai partigiani in Liguria. Oggi Gianluigi ha 86 anni e ricorda di quando, nel novembre del 1944, si trovava a comandare il posto di blocco a Cavassolo, vicino a Genova. Eravamo in sette, ci raccontò Ragazzoni. Io come sergente e sei bersaglieri. Uno di questi era un ex partigiano, si era arruolato dopo la cattura. Forse fu lui a tradirci. Nella notte fra il 3 e il 4 novembre 1944 venimmo assaliti e catturati dalla brigata Volante Severino. Ci fu impossibile reagire, ma ebbi l'accortezza di strapparmi dalla divisa i gradi di sergente. Sapevo che i sottufficiali fascisti presi dai partigiani avevano un unico destino: essere fucilati. Cominciò quella notte l'odissea di Gianluigi. La mattina del 4 novembre venimmo portati a Mareglia e poi a Canate, sotto l'Alpe Sisa, un monte di 1000 metri. Il 5 novembre ci trasferirono in Valtrebbia, prima a Torriglia e quindi a Gorreto, dove si trovava il comando della terza divisione Garibaldi Cichero, la formazione guidata da Aldo Gastaldi, il famoso Bisagno. A Gorreto ci interrogò il commissario politico della Cichero. Era Giovanni Battista Canepa, Marzo, un uomo vicino ai 50 anni. Lui ci pose davanti a un'alternativa: arruolarsi nei partigiani o essere liberati e rientrare a casa con l'impegno di non tornare nei reparti della Repubblica Sociale. Nel secondo caso ci avrebbe dato un lasciapassare firmato da lui. Non avevo nessuna intenzione di fare il partigiano. Pensavo a mio padre, assassinato a Chieti l'anno precedente. Dissi che sarei rientrato in famiglia. Marzo mi consegnò il lasciapassare e mi fece dare un po' di viveri a secco per il viaggio. Ripartii subito in direzione di Genova, sempre a piedi, con l'energia dei 20 anni. Ma poco dopo, quando mi trovavo già vicino a Torriglia, venni fermato da una pattuglia di partigiani. Quella era una zona praticamente occupata dalla Cichero, che proprio in quei giorni si era rafforzata per l'arrivo del Vestone, un battaglione della Monte Rosa, la divisione alpina della RSI, che aveva in parte disertato ed era passato con i garibaldini. Mostrai alla pattuglia il lasciapassare firmato dal commissario Marzo, dove si diceva che ero un militare della Repubblica e che avevo il permesso di ritornare a Genova. Il capo della pattuglia lesse il foglio, si mise a ridere e lo stracciò. Poi mi disse che dovevo andare con loro. Mi condussero a Montoggio, in Valle Scrivia, e mi rinchiusero nella casermetta dei carabinieri, in una stanza di sicurezza. Passai in cella la notte fra il 5 e il 6 novembre. La mattina del 6 venni avviato verso Bogli, sempre scortato dai partigiani. Insieme a me c'erano altri due prigionieri. Uno era un macellaio di Genova, sui 50 anni, catturato non so per quale ragione. L'altro era un piccolo industriale, sempre di Genova, e sfollato a Torriglia. Gli avevano chiesto di versare ai partigiani una somma importante. Lui non ce l'aveva o si era rifiutato di consegnarla. Così l'avevano preso. Non fu semplice arrivare a piedi fino a Bogli. E non soltanto perché stava piuttosto lontano. Il motivo più pesante era un altro. Per evitare che tentassimo di scappare, i partigiani ci avevano obbligati a togliere le scarpe. Camminammo per ore a piedi nudi, protetti soltanto dalle calze. Si procedeva lungo sentieri di montagna, pieni di sassi. I piedi cominciarono presto a ferirsi e a sanguinare. Non c'era niente per medicarli o per fasciarli. Tutti e tre passammo la notte chiusi in una baracca con i piedi doloranti e il giorno dopo, nel pomeriggio del mercoledì 7 novembre 1944, arrivammo al campo di Bogli. Chiesi al dottor Ragazzoni di disegnarmi la pianta del lager e lui mi tracciò una mappa molto precisa che corrispondeva alle fotografie che avevo scattato nel 96. Ragazzoni restò rinchiuso a Bogli sino al 10 dicembre, per 33 giorni, ed ebbe modo di osservare molte cose. Quando arrivammo al campo, continuò a raccontare Ragazzoni, i nostri accompagnatori ci consegnarono a un russo. Lui ci perquisì, diede un'occhiata distratta ai nostri piedi, ma non si curò di domandare alla pattuglia di riconsegnarci le scarpe. A questo proposito voglio dirle che, come tutti gli altri prigionieri, anch'io rimasi sempre a piedi nudi e infatti una delle ferite cominciò a infettarsi in modo grave. Il capo del campo era un partigiano chiamato Walter. Il suo nome vero era un altro. Ragazzoni me lo dettò e lo scrissi. Era un giovane di Genova, sui 23-24 anni, alto come me, magro, capelli e barba castani. Non indossava una divisa, ma sulla giacca borghese aveva un triangolino, il grado dei comandanti di distaccamento. Ricordava molto bene che tipo fosse Walter. Un violento, un sanguinario, un pazzo sadico che godeva a torturare i prigionieri e poi a fucilarli. Nessuno poteva impedirglielo, perché lui era il padre eterno del lager, con un dominio assoluto sui detenuti. La truppa di Walter era di 6 o 7 partigiani della Garibaldi. Ricordo i loro nomi di battaglia. Il suo secondo era Moretto, un sardo. Poi Vago, un ucraino forse evaso da un campo di concentramento. Quindi Tromba, un calabrese. Giuda, un genovese. E un altro paio di russi. Infine c'era un commissario politico chiamato Due. Era l'unico che si opponeva ai maltrattamenti inflitti ai prigionieri. Ma non contava quasi nulla. Walter era molto più forte di lui e faceva ciò che voleva. Domandai ai ragazzoni in che cosa consistevano questi maltrattamenti. Lui ci offrì un elenco da far gelare il sangue. Bastonate, bruciature ai piedi prodotte con pezzi di legno roventi, immersioni della testa nell'acqua gelata dei due vasconi, finte fucilazioni. Chi apparteneva alle classi 1924 e 25, come me, non veniva picchiato, in base al principio che eravamo militari di leva e la Repubblica Sociale ci aveva costretto ad arruolarci. Ma la vita a Bogli era identica per tutti i prigionieri e dominata da una parola sola: fame. Ci davano da mangiare una volta al giorno, una ciotola di riso bollito senza sale, che spesso dovevamo dividere con altri detenuti. Quando entrai nel lager di Bogli pesavo 75 kg, forse 80. Quando venni liberato dai tedeschi in dicembre, come le racconterò dopo, ne pesavo appena 42. Ero diventato uno scheletro. Livia gli chiese: «Ci parli dei prigionieri?» Ragazzoni rispose: «Nel casolare eravamo una quarantina, ammassati uno sull'altro. I giovani come me, sui 20 o 21 anni, erano pochissimi. Gli altri erano più anziani di noi. Ricordo un colonnello dell'esercito addetto all'ispettorato del lavoro, un tenente dei carabinieri dell'esercito del sud che aveva attraversato le linee, ma era monarchico e dunque un avversario. Parecchi imprenditori e commercianti che non avevano pagato le taglie imposte dai partigiani». Rammento il caporale illustro del battaglione Mameli, medaglia d'oro della guerra in Etiopia del 1935, poi fucilato, o come penso io, affogato da Walter nel vascone dell'acqua. Quindi un partigiano di Giustizia e Libertà, o delle Matteotti, entrato in conflitto con i comunisti. Un altro partigiano considerato una spia dei fascisti. Due Marò, della X-Mas. Un guardia marina poi fucilato. Un altro guardia marina, che scampò e dopo la guerra divenne avvocato. «C'erano anche donne rinchiuse nel campo di Bogli?» domandò Livia. «Sì, due. Una era un'ostetrica di un paese vicino a Torriglia, fra i 30 e i 40 anni, con la testa rapata. Lei venne violentata e poi fucilata come spia. L'altra era più giovane, fidanzata con un maresciallo dell'esercito e forse si salvò. Tanto gli uomini che le donne vivevano nel terrore di essere portati nel bosco di castagni, al di là del rio Bogli. Era il posto delle esecuzioni». Se la mia memoria non fa cilecca, a Bogli si fucilava quasi tutti i giorni. A volte era Walter a decidere le esecuzioni. Altre volte tutto dipendeva dal tribunale della divisione Cichero. Si riuniva in una casa del centro di Bogli. Durante la mia prigionia tenne una seduta sola, il 1° e il 2 dicembre. Era composto da 3 comandanti della divisione: il capo della polizia, il capo di stato maggiore e un altro ufficiale. Ogni udienza durava una 20 di minuti. Ricordo un dettaglio che non so spiegarmi. Chi doveva essere giudicato riceveva in regalo 4 castagne arrostite. In quelle 2 udienze furono condannati a morte 8 dei prigionieri di Bogli. Tra loro c'era una ragazza. Tutti vennero fucilati all'alba del 3 dicembre, in un castagneto a 200 metri dal campo. Finirono sepolti in modo sommario, quasi a fior di terra, e poi ricoperti con foglie di castagno. Le sentenze erano già decise in precedenza, secondo un codice prestabilito, ci spiegò Ragazzoni. La morte era prevista per gli ufficiali e i sottufficiali di qualsiasi corpo militare della Repubblica Sociale. Lo stesso avveniva per chi apparteneva alla X-Mas, alla GNR, alle Brigate Nere e alle SS italiane, senza distinzione di grado, dunque compresi i soldati semplici. Pure i sospettati di spionaggio erano condannati a morte. Dopo la sentenza venivano tutti uccisi. Si salvavano soltanto i ragazzi di leva, come me, e gli ex partigiani. Loro venivano mandati a lavorare presso qualche formazione della Cichero. Io mi sono salvato perché al momento della cattura mi ero tolto dalla divisa i gradi di sergente. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Giampaolo Pansa, I vinti non dimenticano, Rizzoli Editore, 468 pagine, 19,50 euro. Non solo a Natale. Anche dietro allo shopping di tutti i giorni si celano sofisticate strategie di manipolazione delle intenzioni d'acquisto. Sconti, promozioni, tessere fedeltà e raccolte punti ci possono condizionare. Entrati nel supermercato, circondati da promozioni, offerte 3x2 e sconti fedeltà, rischiamo continuamente di diventare schiavi del marketing e delle sue strategie di vendita in perenne evoluzione. Il rischio è alto perché le tecniche di manipolazione psicologica usate dalle aziende per vendere i loro prodotti sono sempre più sofisticate e possono condurre a forme di condizionamento e di dipendenza attraverso quello che gli specialisti chiamano l'effetto Lucifero, la capacità di manipolare le scelte attraverso i nostri desideri più reconditi. Non a caso, spiega Raishi Bajshi, professore di marketing al Virginia Tech Institute, sono sempre più diffusi i programmi di fidelizzazione, come le carte fedeltà, che molti esercizi commerciali rilasciano ai propri clienti, promettendo punti, sconti e vantaggi. Secondo una ricerca di Colloquy, azienda leader del settore, un capofamiglia medio americano utilizza 6 carte, ma ne possiede fino a 14. Dietro ciascuno di questi pezzetti di plastica c'è una precisa strategia psicologica, sottolinea Ferdinando Pellegrino, psicoterapeuta. Quando la consapevolezza di ciò che vogliamo è scarsa, siamo facilmente influenzabili e le nostre decisioni possono essere alterate da una serie di fattori esterni. Ci si lascia quindi trasportare da forti ondate emotive, difficili da controllare. Alla base di queste reazioni c'è il risveglio del bambino sepolto nell'io. Si vuole essere premiati a tutti i costi. È un gioco piacevole e gratificante. Anche l'autocontrollo si modifica. Ci si sente parte integrante di un sistema che premia i fedeli, gli appartenenti a un gruppo con il quale ci si identifica. Le card diventano quindi un moltiplicatore di identità, mentre si indebolisce la propria libertà. Non a caso, molte aziende offrono diversi tipi di carte, argento, oro, platino, perché i clienti le usano come status symbol. Si ha l'illusione di appartenere a un club esclusivo e di ricevere un trattamento speciale. Giocando su queste debolezze, osserva Bajshi, si viene introdotti in comportamenti compulsivi. Se non stai attento, puoi cadere preda dei programmi fedeltà, orientando i tuoi acquisti in modo da massimizzare i punti, dando a questi un valore eccessivo e perdendo di vista il vero obiettivo, vale a dire comprare quello che ci serve. Chi ha una bassa autostima è più a rischio di diventare schiavo, dice Pellegrino. E un parametro per misurare il grado di condizionamento è dato dal numero di carte fedeltà possedute. Quando sono più di 3-4, il rischio è alto e i fattori di condizionamento si moltiplicano in modo logaritmico. Come difendersi allora? Avendo prima di tutto le idee chiare su che cosa si vuole e su quali sono i nostri desideri. Basta pensare che oltre il 50% delle nostre decisioni d'acquisto sono prese d'impulso e quindi inconsapevolmente, quando ci troviamo già tra gli scaffali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Mariano Quando i punti fedeltà ci rendono schiavi, sulla Stampa del 15 dicembre. Le scuole bilingue sono sempre di più in Italia. Aumentano per rispondere alla crescente domanda di formazione anche in lingua straniera. Oggi una scuola privata su 5 ha attivato un percorso bilingue, anche se l'offerta è ancora molto frammentata e varia da scuola a scuola. Fenomeno bilinguismo. La formazione in lingua straniera piace sempre di più alle nuove generazioni, cresciute in famiglie globalizzate. Dalle elementari alla scuola superiore, per chi se lo può permettere, il percorso di studi in inglese diventa un must, un fattore competitivo per non arrivare impreparati al mondo del lavoro, e sono sempre più genitori a richiederlo. È difficile quantificare il numero delle scuole paritarie bilingue attive in Italia, ma almeno il 20% offre un programma didattico con buona parte dell'insegnamento svolto in una lingua diversa da quella locale. Le scuole non statali, primarie, primo grado e di secondo grado, censite nell'anagrafe del Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2010-2011, sono in tutto 3.847, di cui 750 dunque con percorsi didattici bilingui rivolte a un'utenza di circa 83.000 ragazzi. Il numero delle scuole paritarie, inoltre, cresce mediamente ogni anno del 2% e quelle nuove, quasi sempre, fanno leva sul bilinguismo per attrarre nuovi iscritti. L'offerta è frammentata, c'è molta concorrenza tra realtà molto diverse tra loro, afferma Gianfranco Porcelli, presidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere. Innanzitutto bisogna distinguere il bilinguismo classico, che semplicemente aggiunge ore di studio in lingua, da quello trasversale, cioè che prevede parte dell'insegnamento tradizionale in lingua. Una lingua straniera si impara veramente quando si inizia ad utilizzarla anche per altro. La corsa alla formazione bilingue negli ultimi anni ha fatto crescere il numero di iscritti nelle scuole paritarie. Mentre le scuole statali alle elementari devono garantire solo 2 ore di inglese a settimana, in questi istituti si arriva fino a 15 ore. Lo sa bene la scuola Montessori Bilingue di Milano, che ha aperto quest'anno un programma per bambini dai 3 ai 6 anni e dall'anno prossimo partirà con la prima classe elementare, per cui ha già ricevuto circa 120 richieste di iscrizione. Rileviamo un grande entusiasmo da parte dei genitori, afferma la direttrice. Quando però mi chiedono se il ragazzo uscirà dalla scuola parlando perfettamente l'inglese, rispondo di no. La formazione bilingue offre un'esposizione continua e naturale alla lingua straniera, ma non è una scuola internazionale interamente in lingua. Dipende anche dal contesto che i ragazzi vivono fuori dalle aule scolastiche, in famiglia. L'importante è rendere naturale la comunicazione in lingua, non un processo di apprendimento artificiale. In una classe bilingue, di solito, un ragazzo su 4 è di origini straniere. Tutti gli altri sono italiani e provengono da famiglie mediamente benestanti. La quota annuale di iscrizione passa dai 18-19 mila euro per certe scuole internazionali di fama riconosciuta, per poi attestarsi in media tra i 3 e i 6 mila euro per la maggior parte delle paritarie bilingui. Non siamo una scuola internazionale, ma una bilingue, afferma Caterina Luconi, direttrice del Petranova Institute di Roma, con un forte approfondimento della lingua inglese. All'elementare facciamo 10 ore a settimana di inglese, 2 al giorno. Negli ultimi 2 anni abbiamo registrato una crescita del 20% nelle iscrizioni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Lingua straniera traina le iscrizioni di Michela Finzio, pubblicato dal Sole 24 Ore del 22 dicembre.